Storiacce di Raffaella Calandra. Da quello che è stato possibile sino a qui ricostruire, la causa della lite è un banale motivo di prendo io prima questa bevanda, no, ce l'ho io, sto al banco. 2 euro, tanto costava lo shortino che innescò la lite per cui ha perso la vita Emanuele Morganti, 20enne di Alatri. Una rissa, poi un pestaggio, tutto partito da uno spintone per una bibita e quindi, senza alcun dubbio, per un futile motivo. Futile, per dirla in un lessico tecnico, come può essere il parcheggio, una precedenza, il rumore dei passi dei vicini di casa. Ma quante volte sono proprio questioni di questo tipo a provocare reazioni dagli esiti non di rado drammatici e, come sempre, violenza chiama altra violenza. E quanto più ingiustificata, tanto più mai esaudita. Così ad Alatri i familiari degli indagati sono dovuti andar via sull'onda delle minacce di chi voleva vendicare la morte del giovane. E poi, anche prima, a Vasto, il fidanzato di una donna uccisa da un pirata della strada ha scelto di andare ad ammazzarlo lui, dopo anni e prima di ogni sentenza della magistratura. Ma da dove nasce questa sete di giustizia fai da te? È la stessa che arma gioiellieri, tabaccai o semplici pensionati contro eventuali rapinatori? Voi che ne pensate? Da qui parte questa puntata di Storiacce. La calma forse viene con il tempo, non subito, non ora, non come ora. Una cosa di questa non si può scordare. Cioè la cosa che fa più male, che per loro, no? Mo si pensano, ci danno un po' di galera, poi come la giustizia italiana. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso, che non abbiano poco. Dare giustizia, Emanuele. So soltanto che questa piazza era la piazza della mia infanzia, è diventata una piazza che fa quasi paura stare qui, quindi... Purtroppo, guarda caso, nel nostro paese ci sono molte cose che accadono. Che vergogna, paura. Non è la prima volta che abbiamo visto una cosa di questo. Alatri è la bocca di tutti, tutta l'Italia, è quello che dà fastidio. 2-3 anni poi, ciao, invece no, non basta, non basta allora. La morte, no? Non è per dire cose più cattive. Nelle strade di Alatri, cittadina del Frusinate, la sete di vendetta in tanti non fanno neanche lo sforzo di camuffarla, come sentite in queste voci raccolte da Chiara Piselli. Il delitto di un tranquillo ventenne, ucciso di botti all'uscita da un locale, ha infiammato di rabbia tanti, sia nelle strade del centro che in quelle della frazione di Tecchiena. Così l'auto del padre di uno dei fermati è stata bruciata, l'intera famiglia costretta ad andare via e uno degli avvocati, Giampiero Vellucci, raggiunto da una spedizione punitiva nel suo studio. Sono entrate delle persone, amici, parenti di questo povero ragazzo al quale va tutta il mio cordoglio massimo, totale, assoluto. Hanno lanciato delle minacce e delle offese dicendo che io dovevo lasciare la difesa di queste due persone. Ci sono giornalisti, ci sono altri avvocati. Un altro avvocato ha rinunciato stamattina, altri due non hanno preso il caso, un altro si è dileguato, cioè stiamo andando incontro ad una guerra di tutti contro tutti che alla fine è partita da un fatto gravissimo e sta colpendo persone, ma lo ripeto, io non vedo che cosa ci sia di scandaloso, di immorale, di anomalo, di ingiusto per poter ricevere una spedizione come quella di ieri. Se ci fermiamo un attimo a pensarci, è terribile tutto questo che stiamo ascoltando, perché il legittimo dolore delle vittime, e se volete anche la rabbia naturale, può diventare legge del taglione, che è contraria ad uno Stato di diritto e significa soprattutto sfiducia nei confronti della giustizia. Un sentimento, ahimè, cresciuto negli anni, con cui anche il legislatore ora fa i conti, come ammette preoccupata Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia della Camera e già magistrato. Sono preoccupanti perché credo che sia una questione culturale di come viene percepita l'insicurezza o la sicurezza, che spesso, troppo spesso, mi spiace dirlo, viene anche alimentata da un certo tipo di informazione, da talk show, da pomeriggi interi della TV. La giustizia arriva, certamente noi sappiamo che alcune volte è troppo lenta, dal punto di vista anche del legislatore ce lo siamo posto, tant'è vero che stiamo cercando di chiudere alcune riforme sui tempi della giustizia penale. Abbiamo varato degli aumenti di pena per chi ruba nelle case, chi fa delle rapine. Ovvio che a un certo punto però bisogna stare attenti, questi fenomeni della giustizia fai da te non vanno assolutamente incentivati mai. armato di una pistola semiautomatica, ha aspettato la sua vittima fuori da un bar. Lì Fabio Di Lello ha sparato 4 colpi da distanza ravvicinata su Italo De Lisa, un ragazzo di 22 anni che l'estate scorsa, passando in auto con il semaforo rosso, aveva investito e ucciso sua moglie, Roberta Smargiassi. Consumato dal dolore, Fabio Di Lello ha aspettato che Italo De Lisa, il 22enne che nel luglio scorso aveva investito e ucciso sua moglie Roberta Smargiassi, uscisse da un bar di Via Aperta a Vasto per ammazzarlo. Fabio Di Lello è stato condannato a 30 anni di reclusione per l'uccisione di Italo De Lisa. Il verdetto è stato emesso oggi dalla Corte d'Assise di Lanciano. Il 34enne vastese è stato ritenuto responsabile dell'omicidio volontario premeditato di Italo De Lisa, 22 anni, avvenuto lo scorso 1 febbraio davanti ad un bar di Vasto. Mentre si stava ottenendo una giustizia da parte del tribunale, la persona ha pensato di far fuori l'autore di quel reato, quindi forse questa persona aveva bisogno di un sostegno psicologico, non ha retto di fronte alla perdita della moglie. Gli episodi, ad esempio, come quello di Vasto, dove un uomo, l'ex fidanzato di una donna che era stata investita da un pirata della strada, ha poi voluto uccidere chi l'aveva investito, oppure ancora le tentate spedizioni punitive di Alatri, sembrano dare un quadro che è ancora più preoccupante rispetto, vogliamo dire, alla reazione immediata di chi si ritrova i ladri in casa. Bisogna anche pensare a un'attività forse anche di sostegno delle vittime, psicologico oltre che economico. Noi questa sulla la tutela della vittima abbiamo dedicato l'attuazione proprio di una direttiva, quindi abbiamo creato una serie di norme che vanno dall'informazione al sostegno, al gratuito patrocinio, quindi varare delle norme che diano più sicurezza non solo percepita ma reale dai cittadini e tempi più celeri per la giustizia, anche diciamo quindi fiducia maggiore dei cittadini nei confronti della giustizia, d'altro canto disincentivare questa possibilità del fai da te. Le proposte di legge che vanno in questo senso sulla legittima difesa, dove si dice mi viene un ladro in casa, lo posso uccidere, questo è un qualcosa di barbaro. Lei sa perfettamente che sono in tanti a non pensarla così, sono in tanti anche tra anche avvocati più o meno famosi dicono, oppure politici più o meno famosi dicono di avere una pistola accanto al letto. Già oggi la si può usare, nel momento in cui c'è un pericolo della tua vita tu puoi legittimamente usare un'arma, ma non nei confronti di un ladro che scappa. Mentre oggi che cosa si vuole? Si dice se io ho usato l'arma, mi è entrata una persona in casa, comunque non voglio che ci sia nemmeno l'indagine, ma questo è impossibile. Io sono molto persona, anche dal punto di vista parlamentare, oltre che come persona, come cittadino, molto vicino alle vittime e quindi di reati, per cui mi medesimo e abbiamo cercato di tutelare in tutte le modo, anche processuale, anche dandogli un peso maggiore, perché la vittima molte volte è fuori del processo e il processo sembra che sia il ruolo solo di difesa dell'indagato. Quindi invece abbiamo varato delle norme del 2016 che proprio danno poteri alle vittime. Adesso anche nella nuova riforma del processo penale che è tornata al Senato ci sono addirittura dei poteri della vittima di dire dopo 6 mesi che fa una istanza, dice ma a che punto è la mia istanza, cioè chiedere notizie. Avere un rapporto più diretto con la giustizia, quindi questi progetti vanno anche nella direzione del colmare questa distanza tra i palazzi e le strade. Questa è forse la chiave di lettura. Cioè bisogna cercare attraverso le norme, attraverso le prassi, attraverso la sensibilità e la professionalità degli operatori tutti, dai giudici agli avvocati, di far capire che quando c'è stato un evento mortale, un'aggressione, una vita spezzata, ovviamente ci vuole un'attenzione in più. Quello della legittima difesa è un tema molto sentito, lo sappiamo, ancor di più delicato e non di rado, diciamocelo con chiarezza, strumentalizzato anche da forze politiche. Ma i rischi di avere tante armi in casa sono alti. Ancor maggiori quelli innescati dal senso di sfiducia verso la giustizia nel suo insieme, ciò che porta a ritenere che sia inutile, ad esempio, ricorrere a forze dell'ordine o a magistrati, piuttosto sia preferibile armarsi e andare, colpire e vendicarsi. Un dente per dente, occhio per occhio, che esplode ancor di più quando futili sono i motivi della violenza iniziale. In questi casi, in teoria, si dovrebbe essere condannati a pene ancor più severe, ma solo in teoria, tant'è vero che ora, dopo la vicenda di Alatri, le cose potrebbero cambiare per i cosiddetti omicidi per futili motivi, come sentirete nella seconda parte di Storiacce. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta a Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Storiacce. Il duplice omicidio avvenuto lunedì scorso a Barletta sarebbe scaturito da futili motivi. Massacrato di botte per una frenata troppo brusca. Vittima del pestaggio Alessandro, 38enne autista dello 012, la linea ATAC che attraversa il quartiere di Acilia nell'entroterra del 13° municipio. Motociclista 38enne trevigiano accoltellato per futili motivi dal vicino di casa, un muratore 60enne marocchino. Uno sguardo di troppo, una parola detta male, Zac. La rabbia del vicino di casa si è trasformata in agguato con uno, due più colpi sferrati con una lama di circa 10 cm di un coltellino svizzero. Un futile motivo, come lo spintone per una bibita da 2 euro, con cui è cominciato il calvario di Emanuele, 20enne ucciso da ladri, ricostruito così dal procuratore di Frosinone, Giuseppe De Falco. Tutto è nato in un diverbio all'interno di una discoteca. All'interno di questa discoteca, dove c'era quindi un numero esorbitante di persone, ha avuto origine un banalissimo diverbio tra Emanuele e un'altra persona che è stata erroneamente indicata all'inizio come di etnia albanese. Una banale lite per motivi di accaparramento di una bevanda, chi beve prima questa bevanda piuttosto che un'altra, determinata anche dallo stato di alterazione da alcol che non era di Emanuele, per quello che ci risulta, e che ha condotto poi il personale del locale a portar fuori Emanuele. Una volta fuori, in posti diversi della piazza, c'è stata un'aggressione da parte di persone diverse, con modalità diverse le une dalle altre. Al di là dei motivi psicologici, di cosa cioè possa portare ad imbracciare una pistola, un coltello, un manganello o a sferrare solo colpi violenti per uno spintone, uno sguardo di troppo, un parcheggio o una bibita, c'è un tema assai serio che magistrati e politici devono porsi. La risposta della giustizia è sempre adeguata, riesce cioè a fare con i suoi strumenti, quindi le pene, da deterrente autentico verso queste esplosioni incontrollate di rabbia? Il nostro codice prevede un aggravante per i futili motivi, cioè uccidere per futili motivi è più grave che uccidere basta e quindi si dovrebbe essere condannati a pene superiori. Però di fatto tutto questo, che viene regolamentato con norme che risalgono al ventennio fascista, quasi sparisce nei complessi calcoli della giustizia. E allora forse, suggerisce Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia della Camera ed ex magistrato, bisogna rivedere proprio questa aggravante se si vuole evitare un ricorso sempre più forte alla legge del taglione. E sono vecchie aggravanti che sono state previste dal codice Rocco e che insomma tra le varie aggravanti. Ora invece stanno prendendo sempre più peso e quindi forse va anche ragionato se non prevedere un aggravamento specifico di pena, perché oggi c'è un aggravamento di pena, ma con le cosiddette aggravanti generiche che vengono poi eliminate in un conto della pena se c'è un attenuante qualsiasi. Quindi di fatto non si finisce per pagare per questi futili motivi o comunque è esiguo? Non contano più di tanto. Noi in una proposta che avevamo mandato al Senato, per esempio quando c'è una vita spezzata, quindi un omicidio per futili motivi, avevamo detto che in quei casi non ci doveva essere lo sconto di pena per, le, il rito abbreviato, lo sconto secco di rito abbreviato, cioè certo, di un terzo, di dare questa, il Senato questa proposta non l'ha discussa, l'ha messa in un calderone di un altro provvedimento senza discutere. Ora noi proveremo a ricalendarizzarla, perché riteniamo che quando alcune morti, per esempio, o lesioni gravissime vengono realizzate per conferizie, crudeltà, futili motivi, è un aggravante che non può passare così inosservata, in qualche modo se ne deve tener conto. E secondo lei ora, visto anche la vicenda di Alatri e quanto ha colpito un po' tutta l'opinione pubblica, potrebbe essere il momento di ritirar fuori questo progetto per una stretta, per un aggravante dei futili motivi? Ma io credo che abbiamo vari provvedimenti in discussione e quindi si può, sicuramente ci può essere un'attenzione su questo punto, anche se anche lì no, molti mi rispondono che non è aggravando le pene che si risolvono i problemi, perché questi sono proprio problemi come il bullismo, il cyberbullismo, le aggressioni per futili motivi, ecco, fanno parte di un ruolo di educazione, di socialità, di solidarietà, di ripresa anche del ruolo educativo e formativo anche delle scuole, che forse insomma va recuperato. Il cinema può insegnare tante cose, può aiutarci a riflettere, a superare barriere e pregiudizi, a scoprire il valore della diversità, a riflettere criticamente, può aiutarci a contrastare la violenza come quella da ultimo ad Alatri, può aiutarci a contrastare quella violenza verbale che circola sempre più velocemente tra il web e le nostre relazioni umane. Una risposta educativa, culturale, come quella che forse anche il capo dello Stato Mattarella invocava nell'incontro con gli attori prima della cerimonia dei David. Anche il cinema può insegnare a contrastare la violenza? Di sicuro la giustizia è la base di ogni Stato di diritto, e questo lo era già nel mondo classico, come ci racconta allora, come sempre a questo punto, Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Una sola cosa conosco, grandissima: ricambiare con mali terribili chi mi fa del male. A parlare così non era un bullo di periferia, ma il poeta Archidoco del VII secolo a.C. E sentite quest'altra frase: so amare chi mi è amico, ma so aggredire chi mi è nemico. È sempre Archidoco, non un teppista qualsiasi che si riconosce nella legge del branco. Archidoco, un po' perché davvero era fatto così e un po' perché amava recitare questa parte nelle sue poesie, si qualificava come membro orgoglioso di un gruppo chiuso, di una cerchia aristocratica che conosceva come unica legge le logiche dell'amicizia e dell'inimicizia, e che quando si sentiva tradita o insidiata nello spazio che riteneva proprio, ricorreva alla violenza. I classici si sa non danno solo buoni consigli, ma anche pessimi esempi. Del resto, sentite quest'altro brano: il tuo occhio non avrà compassione, vita per vita, occhio per occhio, mano per mano, piede per piede, dente per dente. Questa, l'avrete riconosciuta, è la Bibbia, libro del Deuteronomio 19:21. La legge del taglione è radicata nella storia umana quanto la logica del branco, dal canun della tradizione albanese alle faide familiari dei paesi della Calabria. Poi certo c'è tutta un'altra storia, la storia del diritto, della società che vuole tutelare tutti i suoi membri. Anche questa storia inizia con i greci, se non ancora prima, con il codice di Hammurabi. Ma quello che valeva già ad Atene o a Babilonia sembra non valere ancora in certi angoli d'Italia. E a voi? È mai venuta la tentazione di farvi giustizia da soli? Ci sono casi in cui secondo voi potrebbe essere legittimo? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece mi potete seguire all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.